cercando nei momenti della vita, ci tuffiamo nei ricordi e nell'età, quando poi alla fine si è capita, riscopriamo tante volte la realtà. Quante volte ho cercato le parole, capito che sono dei momenti, come luce chiara più del sole, a rendere giustizia ai sentimenti. Capire il perché di tante storie, forse so cos'è, il bisogno di vivere emozioni che ci mettono le ali e poi. Capire se amore ed è normale, cosa resterà, da una storia al lieto fine oppure delusione, scoprendo per magia la verità. Vedere nella vita a fondo la realtà e capire come siamo noi, nello scorrere del tempo e dell'età, se abbiamo preso oppure dato noi. In amore sino all'ultimo respiro, darsi sempre non finire mai, se pretendi ti perderai in sospiri, resta in gola quello che vorrai. Conosco la mia storia e l'ho capita, so come sarà. Poco importa il lieto fine, questo non è un sogno, io sto vivendo solo la verità. Anche nel dolore questo amore so che resterà. Una storia come tante, come pochi, andare sino in fondo alla realtà.